l'aveva fatto a te, mi sarei vergognato. Sto dicendo, cazzo, gli ho dato 100.000 euro per farmi un pupino a tua madre. Ti sta da mangiare i soldi che gli do io ogni giorno. Ti hanno soprammalorato! Mi sveglio, quella grande, bagasse mamma tua, capito? Che non ti piombo di telefonata a casa tua, froscio. Che sei un drogato! Drogato! Sono froscio perché mi ho fatto quella grande bagasse di mamma tua. Quella grande bagasse di mamma tua. Puoi venire qua sotto casa mia, capito? Non mi fai un cazzo né tu e né quella grande bagasse di mamma tua, capito? Che me lo ti coglioni! Me lo ti coglioni! Guarda che telefono, che ne sveglio con la bagasse di mamma tua, eh? Quella grande bagasse di mamma tua. Vai, vabbè, che da domani ti piombo di telefonate, capito? Poi non ti lamentare, da domani ti piombo di telefonate, capito? Che ne sveglio quella grande bagasse di mamma tua. Tu devi finire di telefonarmi a casa, capito? Brutto coglione, figlio di puttana. Tua madre è una grande bagassa! Hai capito che ti piombo di telefonate? Quello che domani mattina mi diverto io, stronzo. Passa via. Ti basta che mi ha rotto il coglione a telefono, non ti basta? O vuoi che piombo di telefonata a quella bagassa non è tua? Il tuo numero qua è in frequenza, eh? A svegliare quella grande bagassa non è tua? Quella che ti protegge, brutta cogliona, figlia di puttana, pure lei.